Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Gel disinfettante per le mani, mascherine, guanti, misurazione della temperatura. Questo è ciò che fino al 21 giugno gli autotrasportatori potranno trovare presso stand della Croce Rossa, allestiti in quattro diverse stazioni di servizio presenti sulla rete ANAS. La campagna, denominata Save the Tracker, è realizzata con la collaborazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e vuole contribuire concretamente alla sicurezza di una categoria che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha continuato a operare pur tra mille difficoltà pratiche, trasportando beni essenziali per tutta la comunità. Oltre ai dispositivi di protezione individuale e allo screening della febbre, gli autotrasportatori potranno infatti ricevere informazioni sanitarie sul Covid-19 e chiarire eventuali dubbi sulle procedure per proteggere dal contagio se stessi e gli altri. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi di un'iniziativa che riguarda il mondo dei trasporti. Indossare mascherine e guanti, lavare spesso le mani, mantenere le distanze di sicurezza sono infatti tra le prime pratiche ritenute necessarie per evitare la diffusione del nuovo coronavirus. In base a questa consapevolezza è nato un progetto che si chiama Save the Tracker, un'iniziativa lanciata lo scorso 21 maggio da ANAS e Croce Rossa, un'iniziativa nata anche in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, e noi ne parliamo oggi in compagnia dei nostri due ospiti che sono Claudio Arcovito di ANAS. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. E Fabio Di Lenardo, che è il responsabile dell'area sostenibilità e responsabilità sociale della Croce Rossa Italiana. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, comincerei con ANAS. Arcovito, allora, come nasce questa idea e perché il segmento proprio degli autotrasportatori? Diciamo questa iniziativa rientra nella strategia di sostenibilità di ANAS, in quanto tra l'altro strategia che è inquadrata nella strategia di sostenibilità del gruppo Ferrovie di cui ANAS fa parte, che vede sul tema della sicurezza uno degli obiettivi principali di questa strategia. In questo caso la sicurezza è qui interpretata in senso più ampio, quindi non solo come sicurezza delle infrastrutture, che ovviamente è la priorità, ma qua è più una sicurezza di chi utilizza le nostre strade e quindi nello specifico gli autotrasportatori, che sono una categoria professionale che in questo periodo così complicato per il paese hanno, grazie anzi alla loro disponibilità, sono riusciti a mantenere, grazie alla possibilità che le merci raggiungessero tutti i punti di distribuzione, hanno garantito anche una tenuta economica e in parte, mi sento di dire, anche un po' sociale del paese. Certo. Di Lenardo, Croce Rossa Italiana, in cosa consiste praticamente questa iniziativa? L'iniziativa rientra in un progetto molto più ampio che abbiamo sottoscritto qualche mese fa con ANAS. I nostri volontari, una volta individuate le aree di sosta, le aree di servizio insieme ad ANAS, forniscono agli autotrasportatori una serie di informazioni legate ovviamente al Covid-19, quindi un'attività di sensibilizzazione rispetto alle misure che tutti quanti noi, in modo particolare anche gli autotrasportatori che entrano in contatto quotidianamente con diversi soggetti, possono e devono mettere in pratica appunto per limitare le possibilità di contagio. Quindi oltre all'attività di sensibilizzazione che viene garantita dai nostri volontari, distribuiamo materiale informativo, mascherine di protezione, quindi mascherine chirurgiche, guanti monouso e gel disinfettante per le mani, quindi tutto quello che può essere definito come un insieme di dispositivi di protezione individuale che gli autotrasportatori possono utilizzare nel momento in cui entrano in contatto con altre persone. Certo. Arcovito, Di Lenardo parlava di aree di sosta, sono state individuate quali sono queste aree e fino a quando sarà possibile ritirare presso queste aree questo materiale? Allora, le aree di sosta che sono state individuate sono quattro, una sulla E45 sulla strada alla SS3 bis Tiberina, la zona è Santa Lucia, vicino a Città di Castello, tanto per dare un po' di indicazioni. Un'altra area di servizio si trova sul grande raccordo anulare, la Casilina Interna, e altre due aree sono lungo la cosiddetta autostrada del Mediterraneo, la A2, una è a Rosarno Ovest e l'altra è Consilina Est, quindi abbiamo, diciamo, in questo caso sulla A2 abbiamo preso tutti e due i sensi di marcia, sia quello da nord verso sud che da sud verso nord. Diciamo che in questa maniera abbiamo coperto un po' una, come posso dire, un ideale tracciato che parte fondamentalmente dal centro dell'Italia, centro-nord, verso sud. Di Leonardo, voi avete un osservatorio privilegiato, la Croce Rossa Italiana è ovviamente stata impegnata in prima linea fin dalle primissime fasi dell'emergenza, adesso c'è un rallentamento di questa emergenza, ma ovviamente l'attenzione è ancora alta. Come è cambiato l'atteggiamento delle varie categorie impegnate in questo settore, tra cui anche quella dell'autotrasporto, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi? Avete notato una sensibilità di questi operatori o c'è ancora del lavoro da fare? Sicuramente, indipendentemente da quale categoria professionale o lavorativa noi possiamo appartenere, sicuramente le nostre abitudini sono cambiate, questo è sotto gli occhi di tutti. Evidentemente rispetto poi alla tipologia di lavoro che ognuno di noi va a svolgere, c'è un'attenzione diversa e un interesse diverso rispetto poi a quelle che sono le misure da adottare, ma anche c'è una certa curiosità e una voglia di sapere rispetto a quello che sarà l'evoluzione, sia in termini di sviluppo del contagio, di riduzione, come speriamo ovviamente, del contagio, ma anche quello che saranno poi le abitudini che cambieranno nei prossimi mesi. Quindi sicuramente la categoria degli autotrasportatori è una fra quelle categorie che non si è mai fermata e abbiamo la necessità e abbiamo il dovere, al pari tutti i cittadini che stiamo servendo, sia dal punto di vista sanitario in una prima fase iniziale della diffusione del virus, ma soprattutto adesso anche in ambito che definiamo sociale, quindi di supporto poi ai nostri concittadini, a tutte le famiglie italiane, dicevo appunto, gli autotrasportatori non si sono mai fermati e hanno la necessità di essere informati e di garantire quelle che sono le misure per cambiare le proprie abitudini nel momento in cui scendono dal proprio mezzo di trasporto, che sia un camion o un tiro, qualsiasi altro mezzo che utilizzano. Per cui sicuramente la sensibilità è cambiata e l'attenzione è aumentata rispetto a tutte quelle che sono le buone pratiche da utilizzare ogni giorno durante la propria attività lavorativa. Certo. Arcovito, lei prima diceva che questa iniziativa si inquadra e si inserisce in un più ampio ventaglio di iniziative legate alla sicurezza e alla sostenibilità messe in campo da ANAS. Quali sono le altre che riguardano gli utenti della strada? Diciamo che ANAS, per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza per noi è ovviamente la priorità. In generale abbiamo, anche se dicevo su questo tema, abbiamo diverse iniziative in corso, al di là, ripeto, dell'attività che è core della nostra azienda, quindi abbiamo rinnovato da diversi anni una campagna comunicazionale che si chiama Guida e Basta, che tende proprio a sensibilizzare sul tema, per esempio, prevalentemente dell'utilizzo corretto, per esempio, del telefonino in auto, quindi tutte le problematiche legate alla sicurezza e, diciamo, al corretto utilizzo della tecnologia in auto. Poi, come aveva accennato prima il collega, questo protocollo di intesa che è stato siglato con la Croce Rossa apre a un ventaglio di ulteriori iniziative sulla sicurezza stradale, sia da un punto di vista, diciamo, della sensibilizzazione sui rischi e gli incidenti legati a vari comportamenti a rischio, per esempio anche l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, come anche vorremmo provare a lanciare tutta una campagna sul tema della cardioprotezione, cioè vedere se anche il tema della cardioprotezione, quindi creare dei punti dove ci sono i defibrillatori lungo le strade e autostrade in gestione ad ANAS può essere anche un ulteriore elemento di supporto a un tema più ampio, come dicevo, che è quello della sicurezza. Di Lenardo, siamo in chiusura, un'ultima battuta proprio in funzione di questo accordo che la Croce Rossa Italiana ha stretto con ANAS. Quanto è importante in questo momento la tutela e la prevenzione per un settore così delicato come quello degli utenti della strada in generale, quindi non parliamo solo di autotrasportatori? La Croce Rossa è da sempre impegnata non solo con ANAS, anche con altre realtà sui temi di sensibilizzazione e di prevenzione di quelli che sono poi gli incidenti stradali, sin in età giovanile, quindi all'interno delle scuole con i nostri giovani volontari che appunto all'interno delle scuole fanno attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi più caldi, che sono poi quelli della sicurezza, dell'incidente stradale, dell'utilizzo del telefonino alla guida, dell'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti. Per cui sicuramente l'accordo che abbiamo sottoscritto con ANAS andrà a potenziare quella che è la capacità dei nostri volontari, dei nostri comitati distribuiti su tutto il territorio di continuare e di diffondere tutte quelle informazioni che poi sono utili a tutti gli utenti della strada. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ringraziamo e salutiamo i nostri due ospiti, Fabio Di Lenardo, responsabile dell'area sostenibilità e responsabilità sociale della Croce Rossa Italiana, Claudio Arcovito di ANAS, con cui abbiamo parlato del progetto Save the Tracker, un progetto realizzato in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Dicevamo, termina qui questo spazio, l'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.